5F. Ascolta e rispondi. Ballare ti piace? Sì, mi piace. La cucina italiana ti piace? Sì, mi piace. La musica lirica ti piace? Sì, mi piace. Questo maglione ti piace? Sì, mi piace. Giocare a carte le piace? No, non mi piace. Questa casa le piace? No, non mi piace. Questa scuola le piace? No, non mi piace. Questo ragazzo le piace? No, non mi piace.